sul 10 stasera, dai. Buonasera, avanti chi fischia. Vediamo chi c'è sul 10 stasera, avanti. Buonasera, avanti, chi è? Canale 10, vediamo chi c'è qua in ascolto stasera, avanti. Vediamo se c'è qualcuno in frequenza stasera, va. Ora. Buonasera, benvenuto sul canale 10, avanti. Avanti. Sei molto basso, sei a livello di QRM. Per un attimo sei salito a Santiago 9 e poi sei sparito. Qui Gianni da questa parte comunque, avanti. Da questa parte qua Gianni, chi c'è dall'altra parte? Avanti. Avanti. Buonasera. Qui Gianni da questa parte, avanti. Sore. Ehi, eia! Chi è che chiama? Chi è che chiama? Aiuto! Hola! Avanti! Chi è? Buonasera! Buonasera! Chi è dall'altra parte della cornetta? Il barbiere di Siviglia! Cazzo, non ha giubbetti, no! Io sono in cerca di quelli che hanno capelli in testa. Ma se c'è l'attore, giornalmente del 23 tu c'è il 10. Come? Ho detto che c'è l'attore chiamandoti del 23, tu c'è del 10. Buonasera. Credevo che fosse sul 23 invece. Ero spostato e ho guardato prima di chiamare. Scusa, di cosa? Che io credo, umile. Sto pensando che c'è l'attore con Marino. Nel 23 e tu sei Nocchi. Io credevo che Graziano era qua e invece essere sul 23 ce l'avevo sul 10 qua. Vabbè, là. Ok, non è successo niente, là. Che figurati, che cosa deve essere successo Gianmari? Ti sto solo avvisando, avevo sentito attore, ti stava chiamando. Agli intubatori lo metti da Gianmari e Nocchi. Ok, dai, vado a portare il cane, divertitevela. Ciao Giovaria e ciao Daniele. Ciao. Ciao Cavaliere, io sono entrato 2 minuti lì, così. Comunque, ciao Giovari. Io sono entrato 2 minuti che sto facendo cosa, dai. Ciao Daniele, buonasera, ben sentito anche a te, dai. Faccio su 23, ciao. Ciao Giovari, ciao. Ciao Daniele, ci sentiamo dopo al limite, dai. Ciao. Soros. Ciao, arrivederci. Ciao qua, dai. Ciao, lo più room, io mi sto sentendo e sto finendo di stare la TV, dai. Sentiamo dopo. E io lo stesso sto uscendo, ciao. Doppio. Buonasera. Già. Buonasera. Ciao, buonasera a lei. Buonasera anche a lei. Se ne va bene. Ludda. I pollici mi sto girando, ho provato a chiamare poco fa ma non c'era nessuno. Sì, c'era Daniele e Claudio, sì, adesso qui si sono assentati. Daniele non so cosa sta facendo, Claudio è andato a portare giù il canetto che poi risale. Quando risale riprende. Andava bene, ho provato a fare qualche chiamata prima, ho sentito gente bussare ma non rispondeva nessuno. Gente di fuori? No, gente di qua. Fischiava ma non entrava nessuno. Non lo so perché io sino adesso ero... sono specialista. Ho detto adesso. Bene, da. No, ho provato a fare qualche chiamata ma ho sentito qualche fischio, qualche cosa, però non entrava nessuno. Allora, deve essere non avevano voglia. Io, guarda, a me mi fa venire nervoso quando fischiano e poi non rispondo. Vabbè. Non è successo niente, dai. No, non è successo niente, ma dico, se fischi vuol dire che vuoi entrare, se fanno entrare e niente. Scusa un attimo, tanto deve fastidio, me ne sono dimenticato. Vai, tranquillo. Anni. Eccoci. Lo ingerite. Ecchi me. Mi. Manco qua, arrivi. Doppio. Ciao Gianni. No, stavo sistemando il cavo della TV e stavo finendo una cosa, dai. La gala. Ma molto ripetitivo, Daniele. Fai un passaggio più lungo, già. Attenzione, Daniele, se mi ascolti, cambio. Va bene. Allora, falla andare quell'elicottero, spreca la benzina. Adesso lo chiudo. No. Però così come va, cambio. Una cagata, boli come prima, che non ce n'è. Ah, così, ma è brutta la radio. No, già è bella. Allora, per modulare qua, va bene, dopo lo mettiamo. Anda bene meda. Ulla. Già gira. Gira. Avanti, Gian. Figa. Stamattina ho sentito un camionista sul 555 che stava invitando gente a fare casino. 35. Sul 52. Ma chi è la bambolina? Non lo so, non mi ricordo. So solo che stava chiamando gente. Io venire, entriamo a fare casino qua, non so cosa. E chi era? Guarda, ha fatto dei passaggi e poi è sparito. Cacca, raga. Ora. Perché ieri notte c'era bambolina che era qua a doppia sierra. Questa bambolina è il nome di femmina della Bucciuetta. Adesso mi ricordo che cavolo si chiama. Stava scaricando e stasera ripartiva. E lo so, l'ho sentito, ci ho parlato. Ah, è vero che c'era anche tu ieri. Preda dieta. Ehi, poi era qua sotto casa. Vero. Si è fermato a fare cariche, a riposare. Quello di dove? Tipo, di continente, ma non so di dove sia, di preciso già. Magala. Gianni, allora, cosa ci racconti di bello? Insomma, niente di speciale, la propagazione è finita, ce n'era un po' stamattina e poi qualcuno ha chiuso il rubinetto. Ehi, ancora deve partire, non è partita tutta, deve viaggiare. Beh, 7 meno 5. Presto è ancora. Alle 7 e mezza, 8 meno un quarto, comincia. Ma hai visto il tempo che c'è in continente? Vuol dire, a volte che con la pioggia e col vento io ho fatto collegamenti, quindi non vuol dire. Magari da una parte non va bene, dall'altra magari dove tira il vento arrivano anche le onde. Cappa il rosmetro, quello sì, ma di solito è bella, limpida e aperta. Quando è un po' dappertutto fa bello, dai. Continente è gatto di aggrandinata, non hai visto il chicchi grande? Ma oggi? O ieri l'hanno fatto vedere, ballucci erano, ma grossi lì. L'hanno fatto vedere una che era, sembrava una pietra, cazzo che era grossa. C'è quella di gaggirata la macchina, sai come ti dirà male? Sì, già l'ho visto allora quel video. KK, riprendi l'Ubrofe. Ehi, ieri sera anche sul tardi, allora a cert'ora c'era ancora un po' di propagazione, sono riuscito a parlare con Ancona per un po' e poi vabbè, la propagazione è sparita del tutto. Vabbè, io nottate non ci sono entrato, sono messo a guardare televisione, mi sto guardando TV Mondetta. Poi vabbè, stavo provando con un tedesco, però c'era un bel aburotto, c'era un sacco di modulazioni e quindi era veramente incomprensibile, praticamente ci ho tentato un po' di volte e poi ho desistito perché cazzo, mi stava venendo il mal di testa a forse sentire 5-6 modulazioni insieme. Così, è 45 così. No, è 45, 52 già. 52 è un beato come canale, occhio. Ci ho sentito anche Tino qualche volta. A proposito di Tino, non si è fatto più sentire in questi giorni. Luca è. Chi è? Avanti. Ma chi è Luca? Avanti. Chi è che vuole entrare? Avanti. Vabbè, riprendete, aiuto. Va bene. Ok, dai. Ce ne sono. 3-7. Avanti già. Dimo che sono al telefono. Kappa. E beh Daniele, è l'antenna. Cosa stai combinando? L'antenna la sto sistemando, la sto bloccando. Quella rimela tutto. e poi vado di collocarla da qualche parte. Bene mela, bene mela, bene mela. Oh yeah, oh yeah, yes. Ah. Vabbè, gli ho messo quel nastro, già l'hai visto, quello giallo verde lì per non far entrare umidità. Cara cara, ho visto, ho visto. Vabbè, fai da bravo. Olbia, Olbia, Olbia, Olbia, sì, oggi non c'è il daburotto che c'era ieri. Meno male, meno male. E anche su 45 è tutto touch. Sì, perché si è chiusa la propaganda. Anche no, che ci sono le votazioni comunali. Ho sentito Gigi stamattina. A Gigi lo Vulcano. Eia, eia, eia. Ho visto che stava dispensando consigli. Allora, attenzione Daniele, se ascolti il doppio run che chiama, cambio. Buono, buono Gianni, va bene. Tutto a Rogero. Cavallo. Parlando normalmente. Prova già, mi sembra sia un po' ripetitivo adesso, prova. Passo un po', guarda. Ripetitiva. Hola. Attenzione, binario 10, cambio. Così bene va Daniele. Danielo, va bene così? Va bene, va bene. Una bassa, dai. Prova già. Ma si capiscono le parole, si accavallano. Prova. Attenzione Daniele, ascolti il doppio run, cambio. Aumentalo un pelino. Attenzione Daniele, se ascolti il doppio run, cambio. Lascialo così. Va bene che va bene. Cambio. Cappa di rosmetro. Ma ne scando sta già. Cosa? Ho detto Daniele. Ho detto se sta innescando. Hola. Tu? Adesso no. Ma prima mi sa di sì. Ma io non ho sentito nessun innesco. Cava cava. Hola. Hola. Adesso sì. Già. Vaffanapoli. Oh, quando parte l'innesco poi non finisce più. Ma mi devo spostare. Hola. Il senso verde no, che non se ne comprende nulla. Daniele, ma che microfono stai usando? Che microfono stai usando? Sempre il solito. Vabbè, io non conosco il tuo solito. Che cos'è? Un palmario, una tavola, cos'è? CTE, CTE. Non è CTE. Midland 4190, quello nero che è simile al CTE. Però sta innescando adesso, cazzo. Hola. Bene, bene, da chi era dall'altra parte? Gigi? Cappa Rogero, buonasera. Questo sarà un CTE. CTE è quello che va meglio su quegli apparati. Quello che va meglio sono i CTE, se non c'è niente da fare. Uè, Gigino! Questo è il gemello del CTE. Però come mi sposto qua se inizia a innescare questa cosa? Così devo stare, vabbè. Che ho messo una cassa esterna, capito? La sto cercando di sistemare. Avete parlato in tre prima, ero fatto in tre, uno sopra l'altro, la cosa era amara. Tutte e tre assieme avete parlato. Chi voleva entrare? E adesso? Sì. Adesso no. Buonasera, signor Gigino Vulcano. Ciao già. L'hai visto? Ti ho mandato l'ultimo rompiscatole. Già l'ho visto, ti ho anche risposto, ti ho mandato anche il mio da vedere. Tu non l'hai guardato, ma ti ho anche risposto. Ti ho scritto che quei cani sono giocherelloni, hanno praticamente un bel carattere. Ma ho visto che c'è una bella bocca però. È un blu, Mass, come si chiama il Blue Mass, ma cosa è? Non so, mi ricordo, è puro col pellegrino, boxer, no, non è un boxer, c'è il pellegrino, una cosa del genere, non so, mi ricordo. Bull Mastiff. Bravo. Tipo quello di Tequila Bonetti, vero? Non lo so se è come quello, quello me lo, non ce l'ho presente io. Però ti asso, sembra guardandolo, però è molto diverso dal box. È molto diverso questo. È un Blue Master, come si chiama? Blue Master, una cosa del genere. No, non lo conosco, io mi sembrava un boxer a me a vederlo così. No, questo è maledetto pure come c'è. Tipo un pitbull, tipo di un po', però no, non è. Diciamo, io ti ho regalato per il compleanno anche un nipote, dai. È puro, non è cosa, hanno il pellegrino, il padre e la madre anche lui, capito? E i maschi sono? È già 6 mesi, già. Sta crescendo a vista d'occhio. Tutti e due maschi sono? No, tutte e due femmine sono. Tutte e due femmine? Sì, e fra un po', a giugno, tra una settimana arriva anche l'altro, anche Mauro che l'ha preso il cucciolo lì a Cagliari, ha pagato un sacco di soldi nelle cose, cioè, un Rottweiler ci ha preso. Ci ha preso un Rottweiler lui, e così me ne sono tre fra un po'. Chi è il Rottweiler? Il tuo figlio? Mauro si è preso quello lì, è andato a vederlo la settimana scorsa a Cagliari, adesso farà come lo svezza, come si chiama, non so se lo prende, capito? Sempre puro con quelle grip, però che fa l'allevamento oggi? Si va di là? No, gli attaccava tutte le gare che è troppo casino stanno facendo. Beh, Gabius, mezzo a distanza lì, c'è il punto di Cagliari, mi ha fatto un cucciolo di rotto. Magari ho cercato qua, se sarebbe stato lo stesso. E lui che ha voluto andare all'allevamento, che magari sono migliori. Comunque a Cagliari fanno l'allevamento anche degli sciarpei, degli sciarpei cinesi, quelli che ho io. È positivo comunque, ma no, mi pare che mi pare che quel cucciolo lo lasciano 1500 euro, 1800 euro, non ho capito, ma costano cari. Il mio viene dalle 900 alle 1200. Lo so, no, comunque sono già dei bei cani, dai, sono dei bei cani. Però troppi a me, adesso c'è il fatto del tedesco che mi ha anche affezionato abbastanza bene, perché fa la guardia, ma la guardia veramente appaia solo quando c'è la... quando c'è... arriva qualcuno, o sente, se c'è qualcosa lui appaia, se no non appaia. Questa la pesca è bella. Sono cani molto delicati alle orecchie, sono molto di ottizia i pastori tedeschi, però sono gente. C'è chi deve fare il mio oggetto, non c'è niente da fare, a lui non lo fa, se non ci siamo noi, lui no, e neanche barra agricola. Vanno a pelle che oggi il mio, cavolo, ci sono persone che non conosce, li scudinzola, li fa le feste, ci sono persone magari che vanno a toccarlo e subito li bricadano. Quello se le fa i piedi dritti sulla schiena, e quando se le fanno i piedi dritti sulla schiena non aprire il cancello a entrare, che sono cavoli. Sono per quello, sono cani da guardia. Così è il mio non abbaia mai, abbaia solo se c'è necessità e basta. Così è fatto così. C'è un cane da guardia, lo stesso lo usavano per fare combattimenti cinesi. Positivo. No, ma io sento sottofondo a Gio Maria, sul 10 qua, su questo 48, e sono un casa, io lo sento a lui solo, lo sento che sottofondo lo sento. C'ha spuglie, lo sento anch'io. Io zero. Senti il 48 per scendere. No, sento questo. Per questo anch'io, se attacco il galassi, non lo sento più. A parte se anche lo sento basta che abbassa appena appena lo scorce e scompare. Qua non pervenuto. Ragazzi. Ma sicuramente o c'è il microfono ben alto oppure a spurie quell'apparecchio, ma che non è possibile. Ma poco QRM c'è, ho sentito troppo avuto questo baracchino. Sempre uguale, Gigi. QRM è basso, dai, normale. Allora è per quello, è sempre troppo silenzioso. Troppo silenzioso, niente, dai, questo è sempre quello di Pierpaolo, il 48 che devo mettere in camion. Gli ho fatto l'ho messo a posto, dai, che non andava bene. E adesso con male se lo porta via. Cappa Rogero! Ma perché fischia? Adesso ci mettiamo qua. Aspetta. Ecco fatto. Ola. Ma oggi è in domme. Abbassa il micchiglie, vedi che non fischia più. Sì, abbassa un po' il micchiglie. Era sempre uguale, Gigi. Beh, ola. Dipende da come mi sposto io. Ma tu abbassa un po' il micchiglie, ore 15, mettilo. Non lo mettere al massimo. No, se lo metto alle 3 fischia lui. Adesso ore 14. Beh, vuol dire troppo aperto da dentro, hai capito? È al massimo, adesso per esempio questi 48 quando li fanno, li spingono tutti al massimo, se tu lo apri tutto il bicchierino, non esce bene neanche la radio perché è troppo, gliene dà troppo ed esce male. Vanno sempre i 48, questi con la, anche quello che c'è, vanno sempre ore 15, perché se tu aumenti il coso già le fa girare male l'eco e gli va troppo in radio, mi capisco. E si conferma. Io ho provato a mettere anche una cassa esterna per vedere se per non fare il rientro, invece lo fa lo stesso, dai, è troppo aperto lui di natura. Già va bene, già va bene. Ah, vuol dire che c'è il pallascolta, no, per benestato, non è innesca, c'è il pallascolta su quella baracchina. E si conferma, è lui che mi fa il rientro, capito? Lo devo lasciare così, se aumento appena inizia a innescare, dai, va bene. Ma chi te l'ha fatto per fare l'ascolta? Che l'hai fatto tu? No, questo era tutto così, lui. Ma cos'è? Che baracchino è questo? L'87. No, 87 non c'è più l'ascolta. Cosa? Se non lo vedi più per l'ascolta, non ce l'ha l'87. Aspetta, 87. No, non c'ho 7, no. Questo lui è quello modificato. C'è il pallascolta, ed è troppo alto come pallascolta. Sicuramente se è quello modificato c'ha un trimmer all'interno per passarlo appena appena, se no innesca, per non farlo innescare. C'è un trimmer dentro, secondo l'87 chi l'ha fatto. Cava, lascia così, dai, non c'è problema. Già va bene la radio, o no? Sì, io per esempio c'ero nell'altro baracchino, adesso te la faccio sentire, io l'ho fatto nel tornado, l'ho fatto a Massimiliano Bulldozer, pallascolta, l'ho fatto col pomello dall'esterno però, e davanti c'ero nel pomello davanti, che lo aumento e lo abbasso, lo chiudo del tutto il pallascolta. E te faccio vedere l'altro, come sul tornado. Cava, riprendi, rubro fre. E chi me? Bum bum bum bum bum bum bum bum. Parla ascolta, sei sempre lì, mi ce l'hai dietro la testa, ce l'hai questo innesco, è sempre lì pronto a partire. Oh, questo è... Parla ascolta, qua gliel'ho fatto io, me l'ho fatto a Massimiliano Bulldozer. Cava. Perché non c'è il problema lui, che l'87 c'ha lo spinotto laterale, l'attacco del microfono. E ci vorrebbe quello a L. E così riesco a spostarmi. E questo non c'è al laterale, dove ce l'hanno, c'è al lato questo qua. Quindi senti, adesso ti faccio sentire come fischia, guarda. Vedi, se giro l'aumento, l'abbasso, c'è il pomello, no, l'abbasso, e ce l'ho di meno, lo sento, l'ho posso regolare come voglio, capito? Dall'interno, ho preso i fili dall'interno e l'ho portato all'esterno, capito? C'è un trimmer dentro, tu elimini quel trimmer che c'è dentro, messo che l'ho messo, che l'ha modificato, è l'87, non so di chi sia quell'87. Questo ce l'aveva Massimiliano. È quello, gli avevo regolato io un po' il pallascolta da dentro, c'è un trimmer già per pallascolta, per non farlo innescare, che se non fischia. E quello, se Massimiliano c'era dentro, un è mio quell'87, quello mio era quello lì, quello c'è scritto rapido, se lo apri tu lì. Ah boh, sei con la scheda a colto, eh? Ehi, quello tutto tricky track rock and roll. Quello era quello mio, avevo venduto a coso, a Vera 1, Vera 2, non si dice. A Pierpaolo. Poi Pierpaolo li ha venduti a coso, a Massimiliano, due ne aveva venduti. C'è un team dentro, se tu lo apri, dalla parte dell'autoparlante lì, lo vedi su, vicino e dietro, in fondo, alla parte di dietro, guarda che c'è un team che attacca dalla scheda a colto, c'è un team, giù in fondo è messo a posta. Quel team lì tu lo giri e lo metti la parte per la scorsa. Che gli avevo regolato io, che era un po' pazzo, poi gli avevo aumentato un po', ma gliel'ho messo chiuso, vuol dire che è stato toccato nuovamente. Va bene, dai, già resta così lui. Già va bene. L'importante è che la radio sia forte e non inneschi. Allora, adesso ti spiego, serve così. Se tu apri il Mickey Gay, il Mickey Gay deve mettere a ore 15 e poi ti deve regolare quel palascosa dall'interno. Hai capito? Sino che non inneschi, il Mickey Gay va messo a ore 15 e poi deve regolare tu quel trim lì e abbassare, perché se tu lo metti a ore 15 il palascosa deve stare più forte e innesca. Adesso se no tu stai chiudendo la radio, chiudendo il Mickey Gay stai chiudendo la radio, per riuscire tu lo devi abbassare per l'ascolta dall'interno e fare a ore 15 il Mickey Gay, come si fa di regola su tutti gli apparati. Cava, vedi. Ora, adesso lo stai innescando. Sì, ma non deve cosa, perché è da dentro che va regolato, c'è un trim dentro, è fatto apposta, tutti i mesi deve avere il Mickey Gay a ore 15, capito? A ore 15 è regolare da dentro il trim. Ecco che non deve innescare, quando non innesca lui è perfetto, allora tu puoi andare tranquillamente. Cappa, vedi, dipende anche da come metto io, capito lui? Io sono troppo vicino alla radio io. Ma hai capito che ti sto dicendo io? C'è più radio dopo, aumentando tu il Mickey Gay, abbassando il pallascolta. Tu più forte c'è il pallascolta e più meno radio c'hai. Ricordati quel particolare. Cava, guarda, adesso è quasi ore 15 lì. Vedi? Mi sposto e non fischia. Ecco, a ore 15 tu devi fare quel lavoro che ho detto io. Dipende che microfono c'hai sotto. C'ho quello... Mida 4190 è lui. Vuol dire non va bene, lì c'era il CPE, come parla con il microfono, lì ce l'avevo io, sono fatto viaggio a Roma, io in camion ce l'avevo lì a Roma, quel baracchino lì, a Puglia che andava bene, a ore 15, quello del CPE. Ah, c'è il cassino, fate meglio lui. Ciao Claudio. Poi bisogna vedere che se c'è la spugna, molti tolgono la spugnetta davanti, allora innesca e fischia, e quella invece io gliela mettevo sempre doppia la spugnetta, perché è meglio. Invece di una ne mettevo due io nel microfono, capite? E poi invece ne aggavano di tutto. Vabbè. No, ma anche io l'ho usata quella radio, con me non fischiava, non innescava. Evidentemente lui c'è la regolazione troppo alta. Sì, ma quelle radio lì vanno, allora i Mickey Gay ore 15, non di più. Però c'ha un trim dentro, Claudio, e apposta c'è un trim in fondo, proprio sotto, dietro, c'è un trim. E quello lì è per regolarlo, tu devi mettere la ore 15 il Mickey Gay, quindi c'è la radio, c'è la bella forza e bella prepotente. E quello tu devi battere, lo caccia a vite che non innesca. Che si senta il pallascolta, poco, però non deve essere forte, perché sennò innesca e tu sei costretto a chiudere la radio, chiudendo la radio c'è meno radio, capito? Si conferma, vabbè. Chi c'è questo canile? C'è tutto un Luce, Daniele e poi non so se c'è qualcuno altro. Sì, Daniele già l'ho sentito. Avanti che tocca. Rubro Fetta! Ciao Claudio, buonasera, ben entrato. Sì, tutta la gira che sono in radio io. Buonasera. Doctor Room. Gianni era al telefono. Sì, manca un pelo per essere ore 15, dai, però non innesca. Vedi? Più di questo non posso aumentare. No, ti è costretto a abbassare il Mickey Gay, tu devi abbassare di radio il Mickey Gay per non innescare. Però c'è, ti ho detto, in quel 87 lì, che era l'87, mi aveva Claudio, mi aveva dato un coso, Gian, il bicchiere, è venuto insieme a te, Cla, mi aveva attaccato il microfono, un MP4, mi pare, da un fa, non è me, cosa si chiama, MP4, Franco Delta, come ti chiamava, Franco? Franco Delta 1, ma non ti aveva dato l'8001, Franco, l'87 ti aveva dato. No, quell'87 era nuovo, quello lì era, 87 poi l'ho andato a modificare io, 87 mi aveva dato insieme a me, l'8001 mi aveva dato, era di Gianni, l'aveva dato al fratello, l'altro Gianni che entra, cos'era, un profeta, no, è dove mi pare mi aveva dato l'8001. No, Gianni il profeta non ti aveva dato nulla a te. Ma te l'ha dato cosa, come si chiama? Non lo ricordo, adesso non è attivo, vabbè. Chi è che vuole entrare da poco fa avanti? E tu chi sei? Allora presentati la prossima volta, invece di parlare senza presentarti. Tu stai parlando così da coi plaghe. Io sono vicino a Putifiga di Alghero. E allora sì, io mi ricordo, ma io mi ricordavo che anche te Franco, Alto, che aveva il coso, l'8001, mi pare aveva uscito in macchina, invece era un'ala 87. Sì. Ciao Alto, buonasera, ben sentito. Ah sì, Santiago Nova, Radio 5, già va bene. Perché io non lo sento. Ora è basso. No, ma sai, mi aveva dato, che era il fratello di Fabrizio, si chiamava, ti ricordi quel ragazzo Fabrizio che ce l'aveva, l'aveva dato il fratello? No, è Gianni, non era Gianni lo Fabrizio. Non lo so, Antonio mi stai dicendo che erano tutti e due i suoi, Antonio Riserva. Antonio Riserva, no, di Antonio Riserva era l'8001, quello che avevo preso io, che era nuovo lo stesso. Ma lui, Antonio Riserva, c'è un fratello che si chiama Fabrizio. Sentito cosa ha detto, tu fratello si chiama Fabrizio, certo. No, quel fratello di Antonio si chiama Cristian, l'8001 che ti ha dato Franco era di Antonio Riserva, capito? Era di Antonio. Allora, per l'altro Franco, tutti e due a te, mi ricordo perché siamo venuti assieme. E Franco ci aveva avuto un'impura di Mirto. No, forse è Cristian, non è detto che si chiama Cristian fratello di Antonio Riserva, così Cristian si chiama. Ehi, a Cristian? Ce l'aveva Cristian, lui l'aveva dato a Cristian quel baracchino. Chiedi se l'aveva dato a Cristian. Ehi, Cristian lo usava, ma erano tutte e due di Antonio. Quelle lì erano, infatti io non mi ricordo, ricordavo che non, Franco mi aveva dato l'87, se poi era Antonio anche l'87, però l'8001 non mi ricordo che era di Antonio Riserva, giusto, sì, che ce l'aveva il fratello. Da chi l'hai comprato? Già, ci conosciamo 40 anni, Antonio, quindi, già lo so, dai, più o meno ho già capito, va bene, avanti, Gianni il Broffetta, riprendi. Sono un ascolto, scusate, Claudio, guarda quello che ti ho scritto sul telefono. Come mi hai scritto sul telefono? Non arrivi lunga, non so che controllo più, ciao, buonasera, riprendi Gianni. Ciao Giulio, buonasera, avanti. Ciao a tutti, sto facendo cosa, non posso parlare, dai, mi sto solo ascoltando, casomai dopo se finisco già entro, dai. Saluto a tutti comunque, ciao Gigi e ciao Antonio, mi serve, insomma, tutti quelli che ci sono, riprendete pure, dai, Gianni, riprendi. Ok. Va bene così, avanti Gigi. Ciao Giulio, dopo la marea del tempo, ciao Giulio. Ciao Luigi, ciao Tony, mi hai ascoltato da parte mia. Sto ascoltando, ma sto facendo cosa adesso, non posso parlare, dai. Claudio, se mi stai ascoltando, dimmi sì o no, mi basta una risposta, sì o no. Guarda, ti ho risposto, va bene così come mi hai scritto tu, ma io ti ho risposto. Ho pubblicato altre volte. Ok. No, perché si era verificata, scusate ancora, si era verificata un qualcosa che non. Lì non si poteva andare, ecco, in poche parole, già mi capisci. Ok, senza specificare niente. Ti ho capito. Va bene. Ok, avanti Gianni il Broffetta, riprendi. Ehi, mi sto rullando una sigaretta, vediamo se doppio Roma è entrato. Gianni? Dai, vi saluto che è arrivata gente a casa, dai. Ci sentiamo, buona serata a tutti. Ciao doppio. Ciao Gian, buona serata. 10 minuti pure io da sento subito. Cava cava, va bene dai. Ok, che è rimasto qua, tra? Sì, vai a prendere Gianni un attimo, ciao Gianni Occhiorù. Ti prendi un profè? Sono una sigaretta in mano, Daniele, non riesco a controllarmela, un attimino. A starola. Tutti impegnati, so, Anto, bubu. No, Anto, un attimino che sto mandando dei messaggi al telefono perché domani mattina devo prendere il materiale in cantiere, non mi ricordavo cosa dovevo prendere, lo riprendo subito. Ciao Antonio, buonasera, scusami, tra un'entrata e un'uscita mi sono dimenticato di salutarti. Sei un bel basso oggi. Non paventare un po' la radio, Antu. Kappa. Siamo entrati a parlare la radio, no vabbè, dai. Torra. Ma oggi cosa faranno c'è qua? Antu, se te lo vuoi prendere quel 60, dimmelo. Ehi, non ti racconto anche di meci 60. Pensaci. Che serve a una persona. Già lo sai a chi. E vabbè, lo prendo io quello, è luglio più nuovo, cosa vuoi ti dica? Io 50 euro devi bussolare per il suo microfono, già lo conosci il suo microfono, non ti preoccupare. No, beh, Radoni si rispetto al 60 con il K, perlomeno io lo porto molto molto bene, ma molto bene. C'ha belli acuti, bei bassi, è un ottimo microfono. Però io sulle linee Kenwood voglio tutti i 60, capito? Siccome c'ho il 780 che c'è l'MC50, lo voglio togliere l'MC50 e mettere l'MC60. E quindi ce li ho tutti con l'MC60 e K, capito? E quello te l'ho detto. No, ma tu cazzo mi conosci? No, non ci riesco. Ma sai quanto esco bene con l'MB+5 col K? No? Con tutti, ho gli adattatori e li ho già provati, non mi piace, sei Kimmo deve essere il microfono Kimmo, sei Icom e c'ho il microfono Icom, sei AES e c'ho il microfono AES, quindi figurati, c'ho 3 MC60, 2 SB20 perché c'ho 2 Icom e 2 AES perché c'ho 2 AES, MD100 della AES, e Anto, non vi ridisci, è più forte di me, è più forte di me, nonostante vanno bene, posso portare bene qualsiasi tipo di microfono, però le radio e le marche devono essere combinate con i microfoni, se no non mi piace. Tanto penso che assassi avete più esperimenti di me con i microfoni, non li hanno fatto, non li ha fatto nessuno. Io ho abbinato Icom con Kenwood, Kenwood con Icom, Iaesu con Kenwood, se senti l'MC60 con il 950 della Iaesu da paura, meglio del 440, ma non posso usare radio del genere in 27, capito? E quindi le lascio fare con i microfoni soli, ne ho fatto di abbinamenti. Ma avevamo già fatto anche con altri radioamatori prove tecniche di trasmissione, capito? Però ognuno fa quello, io con il microfono ci sto molto attento, se la modulazione è bella, non mi piace, devo così vedo tutto. Avanti Daniele, senti andato Daniele? Un K, Uria Riccio, Uria, ma ormai non esce più da qua, lui si è già preso una radio modificata. Anto, lascia perdere. Ne ho visto delle radio maciullate, cazzo. Ne ho visto delle radio maciullate. Un carissimo amico io facciamo un 430 nuovo, ma nuovo la vetrina. Tu lo apri dentro, se me, lì si sono saldati dei fili. Che quasi quasi è che tu ci tracengo, non c'hai tempo, almeno lo faccio rimodulare, sono disaldati dei fili, non sa più dove vanno collegati, si è messo a saldare, ha bruciato tutta la plastica, ha fatto un casino di Gesù Cristo. Ma poi ti sei staccato, cosa vai a saldare dove? Cosa ne sai da dove ti sei staccato? Apriti il computer, guardati lo schema, guarda, cazzi, tu lo vedi, mi ha fatto un bigni. Ci ho provato, ma cosa cazzo ti metti a toccare? Non devi toccare niente. Adesso lì ci vuole uno bravo, tipo Fabrizio, tipo tu, uno che è tecnicamente preparato, con saldatore buono, schema in mano, vedere dove sono staccati questi fili, rimetterlo a posto, riprovarlo, magari magari ha fatto altro casino, cosa ne so qui? Ma nuova, nuova, qua la mia è nuova, mai stata verniciata, né? Qualche graffiettino sopra, ma c'è il fontanino che è spettacolare, nuovo, nuovo, nuovo. Però dico, io non la tocco perché non so dove mettere le mani. La mia, le radio, sia il 430 che il 440, le ha fatte tutte e due Fabrizio, perché questa che ho io adesso l'avevo comprata da Roberto e l'aveva proprio messa in sesto, tutta riallineata, tutta messa a posto proprio Fabrizio, capito? E poi non la stavo usando, ho detto se me la vendeva me l'ha venduta a me. No, cioè ci vuole la strumentazione per come ti dici, Gibone andrà lo smitter senza il segnalatore, il redattore di segnale. Non si possono fare a occhio così, non metti la portante, la trena gente giù, non metti la portante che mi regola lo smitter. Ma come cacchio fai a fare una cosa del genere? Lo sai, no? Ma l'hai detto tu stesso. Cioè, incasini tutta la deviazione, tutto il sistema, no? Va bene. Io ero uscimi negli anni che furono, capito? Poi ho capito com'era il sistema, non ne ho più toccato, non ho più toccato. Adesso queste mie sono perfette, a posto, perché ti ripeto, le ho tutte riallineate, lubrificate, come si dice, le ho messe tutte in ordine, sia una che l'altra Fabrizio. E quindi non le tocco perché sono a posto, sono perfette, per questa neanche un anno fa è stata fatta, 4.40. Roberto, l'ha fatta l'estate scorsa, adesso non mi ricordo, e subito dopo l'ho comprata io, perché la mia l'avevo venduta, mi avevo tenuto solo 4.30, poi io senza 4.40, non so stare, me la aiuterò da comprare. Va bene, avanti a ti tocca, Gianni sei rientrato, aspetta il telefono. Ciao, di Rosmetro, e cosa tu? Che radio è? Ma lo sei modificato? Il cacchio, bel casotto, così è uscita di testa, cava, quando è così prendi, chiudi e lo usi a pezzi. Vabbè, se non c'hai modifiche, non te ne vai nuda il parlo, ascolta, modifiche tipo scheda ecco, e questo è il tipo di modifiche. Antu, si sta alzando il QRM sicuramente, anzi Dorra. Non sono riuscito a capirti. Qua sei Santiago 4 qua. Cosa? Qua zona via d'Italia, zona ospedali. Per quello che ti ho detto se... vaffanculo oggi questa radio. Ho detto, se riuscivo ad alzare un po' la radio. Tappa. Perché vedi, adesso sei uscito un po' più alto là, di prima, di radio. Cava, va bene. E tu. Lo profe! Eccomi. Sì, sta... Piano piano i segnali stanno iniziando a arrivare, sembra che ci sia qualcuno in FM o in banda laterale. Non lo so. C'era quel REM, mi stava coprendo Antonio. No, si stava accavallando, dai. Capito, se male sto parlando in due. Cava di Rosmetro. Mi lui. Ola. Fai un passaggio, Anto, prova. Sembra un pelino meglio. Io proprio faccio difficoltà ad ascoltarlo. No, dove sta arrivando? Arriva. No, io proprio Santiago 1-2, non riesco proprio, adesso faccio veramente difficoltà a sentirlo. No, io sì, il problema è che c'ha la radio un po' bassa, capito? Allora, devo stare così oggi, là, ho capito. E Claudio, ci sei? Si è spostato un attimo, cioè al telefono mi sa che hai si è spostato. Andà bene. Prova tu. Andà bene veda. Daniele! 5 minuti, adesso vado io a rullare. Ehi, andava bene. Cappa di rosmetro. Ma lo stai innescando, no? Daniele, sei sull'orlo, come se ce l'hai proprio, ce l'hai dietro la testa, sempre lì. Mentre parli c'è sempre un principio di innesco. E adesso? Adesso quasi sparito. Aspetta, E adesso? Adesso va meglio. E ora? Sei sempre lì. Adesso però va un pelino meglio. Guarda, adesso? Uguale a prima. Allora, uguale a prima. Me l'hai chiesto, ti sto rispondendo, uguale a prima. Aspetta. Ehi, Gantù, ci siamo. Un'altra cuba, Adesso mi arrivi a picchi di 5 a me. Stai innescando, Antù. Ottima per la truppa, quasi 7 sei a picchi positivi a radio, meglio di prima. Stai innescando. Prova. C'è sempre quell'innesco, quel rumore strano. Boh, perfetto. Si conferma, puntella. Anche due, chi è che chiama Luca? Ma non è chi tu? Non sono Luca. Cazzo, mi arrivano mancato. Chi è? Ma io non sono Luca. Vabbè. Oh, riprendetela per 105 minuti, dai. Allora mi chiamo Luca, va bene. Riprendi, Luca Fè. Bello. Sì, Antò, adesso sei salito appena il segnale, la radio è più comprensibile, però evidentemente si sta aprendo un po' la propagazione e quindi ci sono alcuni segnali che stanno entrando. Però ancora io personalmente riesco ad ascoltarti. No, va bene. Ancora è udibile, va bene. Ok, si vede che sei lì quasi sul limite, ma va bene così. Ho capito. Ma roba in alluminio o in vetroresina? Dico, l'elemento che dovresti rimpiazzare è in alluminio. Ho capito. Vabbè, adesso ti dico una stupidaggine. Hai visto la Brickman che ci sono in vendita dei tubi in alluminio di varie misure? Capisco, vabbè. Era giusto dirti quello che avevo visto, so. Certo, beh, capisco. Sì, vabbè, adesso mi è venuta in mente questa cosa qua, visto che l'ultima volta ci sono stato, mentre stavo cercando della roba, ho buttato l'occhio e mi ricordo che c'era un cestello dove c'erano dei tubi di svariati diametri. Capisco. Sicuramente ci vuole qualcosa di più robusto e di più pertinente all'utilizzo, dai. Eia. Olbia. Cazzo, già le 8 sono. Rocro. Cazzo, un po' così bassa lo tempo in pressa. Quindi questa radio è recuperabile, Antu. Eia. Quindi dai, il paziente non è in grave condizione, dai. Eccime! Ma cavolo, ti dissanguano queste gitte, L'ultima è costata 30 euro. Già lo so che sono così, ma lui è ancora alla scuola materna. Oioioia. Cappa di rosmetro. Un casino, va bene. Forse gli è passato il mancantesimo oggi, adesso non sta più innescando, va bene. Un watt e mezzo e tutto il resto modulati, KK. Chi è? Ciucucciù è alla stazione. Cappa di rosmetro. Lucrofè, Ehi, ma chi è Antonello? Sono Ciucucciù. Sono Antonello col portatile. Ciucucciù. Babbo. È prima Luca, è prima Guido, è per Guidacelo, babbo. Tutto sommato hai tanto sbagliato quel messaggio, Antù. Almeno il freddo non ti coglie impreparato. Vabbè, siamo quasi agli sgoccioli, dai. Se tutto va bene, a detta le previsioni, stiamo entrando nell'aria calda, nel periodo caldo. Quindi ti sta già avvisando per il prossimo inverno. Ehi, cotti arrosto del tutto. come assicuro. Adesso li senti le persone, cavolo che caldo, uff, non si sopporta così, cora, no, vedi ho prima che ci stiamo allagando tra un po'. Aspetta tu, ripeti che c'ho il piccolino, mi sta mangiando la testa. No! Così mi glielo sei vedo. Oh, io, Iuia. Anda beh, anda beh. Cappa di rosmetto. Fissa, vieni. Hola. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4 e 5. Tutti e 7, allora è stato toccato lo smitter. Ma sempre quel 48, eh. Ah, no, questa che faceva ancora quella radio di prima. Cappa, che sei Luca adesso? Magari va, Lu! E beh, Lugarie, buonasera. Azzo, mi in compagnia di Antonio, riserva, Gianni Lubroffetta, azzo oggi ha richiamato guerra, so. Siamo finiti. Allora senti Anto a Luca, dal monte, questo è Luca l'originale, so come va, eh. No, è la casa sua. Anto ha detto che lui c'ha un mobicom, mi stava ingrugliando la lingua, e non lo può mettere in frequenza. Anche tra un po' qua ci vuole le cuffie, Milo E, buonasera, buonasera. Diciamo di sì, Antu, diciamo di sì, fai un passaggio più lungo, Lu. Ehi, vabbè, Antu, non è una solita modulazione di Luca, microfono normale. Però, visto così riesco a capirlo. Ehi, hey, adesso sì, adesso lo sento maluccio. Chi era Eugenio sotto? Avanti! Aspetta una volta. Dimmi Lu! Antonio è su, su! Non ha filighetto! Adesso ti siamo aumentato di segnale Lu. Oh K, va bene. Ok, Eugenio! Boh, mi è sembrato lui. Riprendi Lu Profè! Ehi, no, non mi sembrava Eugenio. Chi è che vuole entrare? Avanti! Scusa un attimo, Antonio ci sei? Antonio Riserva non c'è più. C'era sino a un secondo e mezzo fa, là. Non so cosa è successo e l'ha chiamato Luca e non ha risposto. Volevo un'informazione tecnica. Non mi ricordo, Daniele, se la spirale della Mantova, avendo stazionarie nei canali alti, cioè stazionarie nei canali alti non ce n'è, mentre invece nei canali bassi c'è, se vuole, sollevata o abbassata la spirale? 7 centimetri deve metterla, la ribattino qua, la bobina. Sì, Antonio, ma anche la mia non è a 7 perfetti, a volte ci sono delle variazioni, ma per regolare le stazionarie, praticamente nei canali bassi, no? Dall'1 al 10 c'ha stazionarie, mentre dal 30 al 40 non ne ha. Devo abbassarla o sollevarla la spirale, Antonio? È inversamente proporzionale, quindi se tu sei in frequenza alta devi abbassare, se sei in frequenza bassa devi sollevare. Cosa hai detto Antonio? Ho detto che si dice inversamente proporzionale, cioè in pratica se sei in frequenza bassa sollevi, se sei in frequenza alta abbassi la bobina, hai capito? Quindi praticamente siccome lui c'è stazionare nei canali bassi devo abbassare appena appena? hai stazionale nei canali bassi devi sollevare, se invece hai stazionale nei canali alti devi abbassare. Sì, già mi ricordavo così che era il contrario. Ok, dai, continuate, che sono al telefono con un amico che ha un problema sull'antenna. Ci sentiamo dopo. Appa. Avanti Daniele, imbarrato. Avete separato. Ciao Antonio. Sì, c'era anche Antonio, ma è sparito anche lui. E poi qualcun altro voleva entrare. Ah, ci sei? Daniele, Massimo, Mosso, sì. No, che mi ha mandato un messaggio mia moglie, l'ho letto adesso dalle 7 meno, dalle 8 meno 10, pensa tu. Quando viene ammazza quella. Cazzo, mi picca. Oh, sto chiudendo, sono andato a prendere, dai, sentiamo dopo. Cazzo, ora mi fa la radio a pezzettini, sentiamo dopo. Dimmi tutto. Vabbè. Non è che devo stare cercando la radio, sto facendo alcune cose e quindi non c'è manco il tempo, come prima sarei buttato attaccato a paracchio e quindi entra appena possibile. Ti ho sentito un altro giorno, se ti ho sentito, non mi ricordo male, forse 2 o 3 giorni fa. Stavo facendo una riparazione a un mixer e stavo ascoltando. Eia. Hai fatto bene, E che? Buongiorno, buonasera. Con l'amico ti ha chiamato, scusate, con il Danuccio. Ciao Marino, ben sentito. Con l'amico ti ha chiamato, sì. Sì, mi ha chiamato poco fa. Vado a prendere il microfono che c'è tu uguale. Cioè, non quello lì, ma il più 5, capito? Dovevo accompagnare io da Fusano. E quindi già lo sanno proprio di meno. Ok, chiudo, scusate, non c'è mai più. Ci sentiamo domani, se in caso, va, ciao. Ehi, ciao, vai, ci sentiamo domani. Non c'è problema. Sì, che l'ascolto bene, solo che parla veloce lui, peggio di me. E quindi ci comprendiamo, capito? Ascolta, Antonio, chi è che c'ha qualche router, non per ruttare, no, router per in pratica ho messo l'antenna. E si chiama la vostra fischia, no, sta qua. Ora, adesso sono sta fischia. Non è che c'è qualcuno che c'ha per qualche router, no, che non se ne fa niente. Mi serve per collegare questa antenna wifi al router, poi dal router in pratica distribuire il segnale dentro casa con l'altra antenna parallela. Non so, router mi pare si chiama, non lo so. Comunque, in pratica io prendo il segnale là fuori con questa antenna che ho comprato dai cinesi, puntata di fronte, capito, al palazzo di fronte. Vuole in pratica che questo affare mi amplifichi il segnale wifi esterno e me lo mandi dentro casa, me lo distribuisco in pratica dentro casa. Collegata alla pennetta, per esattezza, c'è il piellino, quello piccolino, dorato, ed è collegata alla pennetta. Dalla pennetta sono direttamente collegato al computer. Però io volevo anche distribuirmi il segnale, dato che ce l'ho a fondo scala, che lo prendo a fondo scala, perché c'ha 38 dB di guadagno questa antenna. E volevo in pratica fare tipo l'amplificatore, capito? Amplificarmi il segnale di lì e distribuirmelo in tutto l'appartamento. Esatto, sì, la voglio amplificare, esatto, sì. E la voglio distribuire, cioè in pratica con un'altra antenna, una specie di ponte, là, come lo vuoi chiamare. Prende da una parte e distribuisce all'altra. Esatto, sì. Se controllo se ce l'hanno i cinesi, invece se ce l'hanno i cinesi mi gira lo biglio in Kiwi, dato che costa così poco magari ce l'hanno anche i cinesi, se c'è fortuna. Esatto, se quei pennini in pratica, che c'è quell'antennino piccolino, io l'ho tolto, E ci ho pensato, metà metri il cavo io, dell'antenna esterna. E il segnale lo piglia benissimo, con 10 metri di cavo. Se ne metto 30, ciao, buonanotte, perché si perde, capito? Non c'ha amplificazione quel pennino. Va bene solamente per attaccarlo dietro, attaccato al computer e basta. Esatto. Già è così, infatti, volevo fare così. Così mi distribuisco il segnale. Dentro casa mi guardo lo smart TV tranquillamente. Perché lo smart TV non è sensibile, capito? E non ce la fa prendere. Capito? Tutto lì. E quindi in quel caso lì volevo fare quella cosa lì. E sperando bene che funziona. Vabbè, adesso vediamo un po'. Intanto sono collegato a Vicio di Vrontemi. Poi ci sono altre reti che adesso non so se è l'ATP o se diavolo è aperta, ce ne sono quattro. C'è scritto rete aperta, però ci vuole solamente l'SSID, il codice, se lo si butti tu. Però è aperta, capito? Deve essere quella puntandola lì alla in Viale Dante, dove sono quei ripetitori, capito, in quell'hotel. No, collegato a quello di fronte, meno male. Quando i film non succede nulla. C'è una buona rete, grazie a Dio, c'è la fibra ottica che gli hanno messo, capito, all'interno del corso. Perché c'è le macchinette per i videogiochi, capito? Non va a giocare più di futuro di nulla, no. Me lo voglio già pronto. Per quello che costa c'era già per figlia in Napoli. Io un amplificatore di wifi e vaffanculo. 15, 13 euro e niente. Tanto quando vai nel bar ti fai un giro, è la stessa cosa. Se figurati non ci vanno neanche più sopra i tetti, allora al botto, no. Oggi finito io a salire sopra i tetti a 56 anni, non saranno. Basta, la vita mia me la sono fatta sopra i tetti e basta un niente e chi ti paga? Hai capito? Per fare installazioni di antenna per 80 euro. Eccomi, Gianni sono, dai, stavo ascoltando. Ehi. Purtroppo qua in zona, nella mia zona, reti aperte non ce ne sono. Ce n'era ogni tanto. Se ne aggancia una ma sparisce subito, non so la provenienza, non so da dove arriva e niente, quindi per adesso tutto tace. Capito, Reti aperti lì in questo piccolo non ce ne sono, mi sembra strano. Per forza ci deve essere la rete aperta. Lui dovresti avere tu le scuole che ci sono in via San Donato. La ferrovia. La ferrovia, esatto, sì, c'è anche la ferrovia, visto? Gianni Toffetta, hai capito? Ti compri con l'antenna che ho comprato io, 20 euro ai cinesi, 10 metri di cavo, una pennezza e stai andando. Punti alla ferrovia e c'hai il segnale a gratis. Boh, io adesso, sì, ne ho due io di quelle pennette della... Ne ho due pennette della TP-Link, una che fa BG e l'altra fa anche BGN. Sì, ce ne ho le due pennette con l'antenna applicabile esterna. Sì, tempo fa avevo comprato sempre un'antenna della TP-Link con la calamita sotto, con un paio di metri in cavo. Provavo ad attaccare la ringhiera della finestra con la calamita, ti ripeto, qualche cosa l'agganciavo, ma adesso perlomeno con questi mezzi non riesco più a agganciare niente. Vai ai cinesi, ti pigli quell'antenna che ti ho detto io, costa 20 euro e lo diritti va verticale, capito? C'avevamo 12 elementi, non era tanto larga, è piccolina. Agganci quella, ci sono, mi sembra, 2-3 metri di cavo agganciati, poi te ne prendi altri 10 e sei andente. Agganci la pennetta, prendi e giri. Dove c'è il segnale più forte, che la linea è aperta, ti blocchi lì. Capace che c'hai anche il segnale dell'ATP Frimi. Basta che chiedi a qualche autista e... capito? E ti dice dov'è. è un bel imbolichi, cazzo. un bel imbolichi. Boh, sì, l'ho vista l'antenna che mi sta dicendo, l'ho vista. L'ho vista su eBay. Addirittura c'è quella senza protezione, quella con gli elementi a vista, e poi c'è sempre la stessa antenna con la protezione, con una sorta di tubo bianco. Non so se l'hai visto anche tu. No, quella non l'ho vista. Una volta me l'aveva fatta a me, Adriano Lando me l'aveva fatta. Ha preso una lapida di olio cuore, ci ha messo un PL e ha fatto un buco dove c'era la lapida, e gli ha messo uno stiletto, sarà stato lungo se no 5-6 centimetri, hai capito? E c'era un pezzo di RG213 qua. Quando lo usavi era una cosa allucinante, addirittura pepigliavo il segnale da usi, capito? Il problema è che con quella artiglieria l'appoggiavo nella finestra che era in ferro, siccome c'era il computer, quelli di base che si usavano una volta, che chiamava Windows 2000, in pratica mi scaricava la corrente elettrica, maggio pigliato la scorsa 2020, penso ci ho buttato tutto, computer e anche quella specie di antenna costruita con l'olio cuore. Cazzarola. Sì, una volta mi sono dilettato anch'io a costruire un'antenna da un tutorial che ho trovato. Era la campana, era praticamente la campana di un di DVD, quella in plastica. Mi ero divertito a autocostruirla, avevo praticamente fatto l'elemento di ricezione con tutte le saldature, siliconata e agganciata con un cavettino. Ho fatto qualche prova così, ma niente di che, ma giusto perché avevo voglia di farla, mi sono divertito, dai, però a livello di sensibilità era veramente scarsa. Io questa non avevo cuore già, cazzo se pompava. Il problema è che mi sono piegato la scala in carica, no? Ho preso, non ho tracciato tutto immediatamente. Capito? Vedevo questa cosa strana, io andavo a toccare il piede del baracchino e mi dava la scossa, io dico, no, non può essere. Tutto l'appartamento mi sono controllato, ho controllato a vedere cosa diavolo poteva essere. Sono andato anche fuori, ho staccato anche addirittura i fili della caldaia vecchia, se magari fosse un'impedita quelli. Invece cos'era? Il computer base che era andato nell'alimentatore, capito, in tilt, e quindi scaricava 110 volt, tondi, hai capito? Cazzo, mi beccavo la scossa del baracchino, l'ho preso e l'ho stracciato tutto immediatamente. Caspita, ti credo, hai fatto bene a passare tutto. Oia. No, ti ripeto, qua per il momento non c'è niente, sì, io qua adesso, ti ripeto, una volta, un paio di volte ho beccato qualcosa, riaperto, ma è scomparso subito, segnale molto debole, forse neanche un attacca. No, attacca non ce la fai, massimo 3-4 dice a aggiustare bene, io ho 5 proprio fondo scala qua, capito? Vedo tutti i filmati bene, tranquillo, posso guardarmi YouTube, capito? Tutto. È aperta tutto il giorno e anche tutta la notte, l'altra libera. Poi c'ho anche l'Otte Carlo Felice, il segnale è 2, in pratica è la sala, invece dove sono gli appartamenti ci vuole il codice, ci vuole, capito? Ok, beh sì, ci sono svariati trucchi per come si dice, vari tipi di protezioni. C'è anche quello di eliminare, per esempio, di eliminare totalmente il nome delle SSID, e ci sono diverse formule, dai, forse quella è quella più semplice. Avanti Antonio, si è spostato, Avanti Antonè. È una si craccavano le altre così. Adesso non si cracca più nulla. Già ci sono gli appenti, ma è veramente molto complesso fare una cosa del genere. No, già ce l'ho io di cosa sono a posto. A voi gli assegnati aperti qua. C'è anche i piscali dall'altra parte, capito? Quindi, anzi, non vuoi avere anche il segnale dal Conti, perché il Conti c'è il wifi dentro. Dove c'è il sanatorio. Sì, sì. Dai, comunque già. L'internet già non ti manca, dai. Non mi manca, no. Sento quando c'è il marino, lo fa. Punta là dove c'è la stazione e il segnale wifi ce l'hai, quindi. Ma se prendi con l'antenna e intanto dove già ce l'hai di fronte alla stazione. Punti lì e se la pigli in Napoli, almeno sei tranquillo. Ah, era Marino quello che è entrato, perché a gente su anche tu, ha detto che cosa se ne è andato. E sì, Marino era. Marino lo sa perché lavora in quelle, capito? La mattina lì vicino dove sei tu, quindi. C'è il telefonino, il segnale wifi se li controlla ogni tanto quelli che ci sono aperti. Ho capito, vabbè, lui è sicuramente molto più informato di me. Adesso appena possibile faccio qualche verifica. Basta, vai col telefonino lì, ti fai una passeggiata, ti metti lì col telefonino in corso Vicco, se vedi che c'è il segnale della stazione, e prendi, non fai altro che puntare, oppure le scuole, hai capito? Ci sono anche le scuole lì al centro storico. O se no il segnale del comune. Sì, vabbè, dall'altra parte sì, vedo i campanili di San Donato e di San Sisto, i campanili però, e per poi ci sono tutti i tetti e tutte cose. Boh, non so, sarebbe comunque da fare qualche esperimento più avanti. Poi ce l'hai a fare esperimento, sì, qui mi aggancio così, capito, con il computer, mi sono più tranquillo. E certo non mi aggancio la vola con wifi, quella a pagamento, no? Già con sciabocco, via. E sarebbe? Ti danno un codice, ti registri e capito e paghi. 5 euro mi sembra che sono, no, 3 euro mi pare un'ora, 5 euro non mi ricordo quante ore sono, capito? Ti agganci lì e paghi, non saranno. Ah, ok, ho capito. Ho capito, sì, praticamente a consumo, dai. Esatto, se è consumo, sì. È aperta, però devi pagare. Ti devi registrare, una volta che ti registri, ti danno un codice e sei a posto. E tu paghi. Naturalmente ci devi mettere il nome e cognome tuo, quindi. E il numero del telefono. Se no come fanno a ritirarsi i soldi? Che tu non fai altro che caricare la carta ogni 2 giorni. E ti futtini, sì, vabbè, ho capito, ma non fa per me, sì, adesso magari in questi giorni faccio qualche esperimento e vediamo un po' cosa succede. L'esperimento verrà che già, se chissà quanto hai detto di cosa perderì, a voglia. Già ce ne sono reti aperte, magari qualche negozio, non lo so, di solito gli uffici pubblici hanno tutti la rete wifi aperta, quindi penso anche agli amici, qua per gli amici che c'è lontano, quindi è impossibile. Però basta che ti fai un giretto, ti abiti subito, fai ricerca rete, quella aperta che ti cade a fare 5, ti fai più o meno, ti metti in mente dove puntare, ti metti un antennino e girai a gratis. Guarda, mi ricordo, adesso non so se è ancora attiva, in Piazza Tola c'era il wifi gratis. Ci sarà ancora sentato Piazza Tola il wifi? Mi ricordo c'erano, ce n'era una. Allora, una era, adesso non mi ricordo di chi era, poi c'era l'altra, quella della biblioteca comunale, se non sbaglio, e una o due erano. però vabbè, quella della biblioteca era, ci voleva il codice. E metto alla volta il codice. Se sono fatto a cercare qualche autista, magari che c'è confidenza, gli dati il codice dei wifi free che c'hanno loro, capito, del Daltram, non so, che ci sono un paio di tram che c'hanno la, i wifi, non sono tutti, è ancora in fase sperimentale, capito, quindi quando lo metteranno per tutti i tram, lì ci sarà a divertirsi. Sì, sì, quello già lo so, infatti ogni tanto mi appare qua la rete, al passaggio del tram. E quello te lo sto dicendo, quindi i punti ci sono, il wifi, cioè, bisogna vedere, trovare il punto esatto dove sono, e poi ti farai il codice, capito, dall'autista, bisogna essere tranquillo. No, vabbè, ho dei conoscenti, cioè, già, vabbè, amici che non vedo da un po' di tempo che lavorano lì, però figurati se stanno appresso a me adesso, vabbè, qui, o magari sono autisti e sono in servizio. Vabbè, quando se dovesse mai capitare, boh, vediamo. Ce ne sono CB autisti del tram, ce ne sono tre, ce ne sono ancora che sono autisti del tram, che sono CB. Uno di Osilo, poi c'è una ragazza che è di Ossi, di origine di Ossi, però ormai abita a Sassari. E poi ci sono due ragazzi che abitavano in via Monsignor Sabato, tempo fa. E abitano tutta la vita, sono autisti anche loro, capito? Vabbè, non li conosco, quindi ciccia, vabbè, ti ripeto, comunque l'ho vista su internet quell'antenna lì, l'ho vista intorno ai 25 euro se non sbaglio. No, mi hai detto cosa, l'avevo vista oggi, 15 euro, dove diavolo non era, di fronte al mercato all'ingrosso, c'è quei negozi di cinesi, l'avevo vista lì, l'avevo vista, 5 euro in meno quanto l'ho pagata io. Caspita, vabbè, sì, quella che ho visto io è della, non mi ricordo la marca, 24,99 più 5-6 euro di spedizione. Ho capito, no, io ho pagato a 20, grazie a Dio. Sono andato lì da cosa? Quello a fianco a Città Mercato. L'ho presa lì, dove ci sono i portati di VEU, 16 canali. Ce ne sono singoli e anche la coppia, 19 euro. Me l'avevi detto la volta scorsa, sì, me lo ricordo. Sì, adesso ho capito quale negozio stai dicendo, quello di fronte al mercato del frutticolo, è abbastanza grande, dai. Esatto, sì. Se tu vai in quel negozio che ti ho detto io, dei cinesi, si fa da certo mercato, prendo i portatili per l'antenna. L'antenna in gomma, quando ho visto così, ho detto, se continuava a prendere i portatili, le cose in mano, gli rimane in mano l'antenna, gli ho detto. Sta molto a spaccarsi, gli ho detto. Invece di prendere la collarina, lo bisogna fare l'antenna, così è. Allora, gli ho detto, guarda che non si usa così, mi. Se ho detto, si rompe l'antenna, dentro c'è un condensatore, gli ho detto. Come fa la minima flessione, si spacca la saldatura, ho detto, e ve la attaccate a fronte con l'antenna. Vabbè, che scherzo, sì, li conosco i Baofeng, quelli imbattevano parecchio, nonostante fossero così piccoli, già quei 5 km già li facevano puliti. 5 km, io da qua arrivo, come so, arrivo a 5 km, dove abito io, arrivo a Balai, fondo scala. Ma col Baofeng il piccolino? Sì, con l'88 per esattezza, abbiamo fatto le prove. Gommino con gommino, anzi no, gommino con, mi sembra gommino con gommino perché l'avevo fatto con la prova con un CB. Poi una volta Marco aveva usato l'antenna magnetica, capito? E arrivavo tranquillamente da casa con l'antenna in gomma, senza usare l'antenna esterna. Poi l'avevo fatto con l'antenna esterna, era ancora meglio. Ho capito, sì, vabbè, io ti ripeto, io lo usavo lì in campagna, avevo fatto qualche esperimento, e niente, insomma, per essere un apparecchietto così piccolo e semplice, già si faceva sentire, dai. Sì, già lo so, aspetta il telefono un attimo. 2 secondi. Chi è che è rimasto in ruota sul 10? Io! Eccole! Avanti, chi fischia? Avanti! Avanti la pecora nel recinto! Oh, Giosaveggia! Avanti! Un casino, Avanti! Avanti, Daniele! Lascia perdere già! Oggi sono tutti giocazzati! Olbia! E oggi propagazione, non ganese! Già si aprirà, dai! No, oggi, ma domani di sicuro! Gaba! Chi c'era in ruota prima? C'era Antonello, che ho sentito il telefono squillare! Antonio, ma si è allontanato, non so se ha chiuso definitivamente. Niente, Claudio non è più rientrato, non so se, però al telefono, come hai detto tu, un po' di tempo fa, no, siamo rimasti in Antonello per adesso. Cappa di Rosma, trasper? Anto, tu sì? Ah, Cappa. Non... C'era Daniele, mi stava chiedendo se chi c'era, poi ho visto che ti sei spostato, no? E gli ho detto, insomma, che non... Se ti eri spostato e non ti stavo più sentendo. Cappa, guarda, c'hai un leggero innesco, Antu. Mentre parli ti porta a prendere questo fischio. Adesso non si è sentito, dai. Ok, Daniele, rientrato sei? Daniele, non pervenuto. Antonello, rientrato sei? Non pervenuto. Vabbè. Aspetta, parlo la 50. Anda, Vex. Se no domani trovo gli occhi uno alla posta dell'altro. Adesso ti numeri le ossa e poi le mischia. Poi un casino si sta male. No, Anto, 225, no. Non fa. Già una 50, basta e avanza. Hai visto i due musulmane? Un po'. Dimmi tutto. Hai visto oggi la sorpresa? No. Guarda, fai il numero della carta gialla. Sì, cazzo, l'ho già ritirata la carta gialla. Anzi, mi ha fatto il doppione quella rimbambita delle poste, cazzo. Mi ha tagliato una e mi ha fatto il doppione dell'altra, perché ho fatto... Mi ha detto la carta di cittadinanza di mio fratello. E siccome è stata a me, si è sbagliata e mi ha fatto il doppione della mia, l'ha fatto. E quindi io ho ritirato ieri e non mi sono ricordato che quando ritiri, 2 giorni prima, ritiri solo dei 600 e basta. Dopodiché il resto lo ritiri il 2 o il 3, hai capito? Cappa, no, da me c'erano tutti oggi, Io stavo guardando che stavo facendo la spesa, che non ricordavo il residuo. Ma guardate, ci sono tutti, quindi nel prossimo mese. No, a me proprio ho fatto il saldo ieri, 100, hai capito? Poi invece sono andato a fare la spesa, ho presentato il banco, ma 37 euro, e transazione negata, perché io sono andato 2 giorni prima, hai capito? In pratica ritirare, mi ha dato solamente 100, quindi adesso mi metto il 2, il 3, quello che è. Andava. Dai, riprendete, sto parlando qua, dai. Speriamo solo che ci diano il resto, perché forse vogliono abbassarlo il reddito di cittadinanza, non lo sapevi. A quanto sembra Salvini ci vuole abbassare i soldi. Crocro! Insomma, con una cosa macra. Tirano la pietra e poi nascondono la mano. E non ci sono soldi, non hai capito che adesso dobbiamo pagare venerdì, quant'è, 3 miliardi qualche cosa per inflazione. Capito? Perché se ne sbattono le balle, non tanto li paghiamo noi. Come abbiamo pagato anche le banche tedesche, ci hanno truffato, hai capito? A posto le banche tedesche andavano, ma le abbiamo pagate con i soldi nostri. Hai capito? feci gli italiani, ci sono fatti inculare i tedeschi, capito? Dai, stendiamo un velo piattoso, dai. Spero solo, guarda, che ci trovi un lavoro veloce, se la piglia il culo, anche a, capito, anche a trombare queste negre, per dire che quando vengono qui in Italia, che non sanno cosa fare, posso dispacciare, ci adesso dai io e ti diamo roba salda. Andiamo bene in Italia, già. Mi pare che me ne vado alle Canarie, me ne vado, adesso mi hanno fatto. Ci sono i voli, ci sono da oggi, per andare alle Canarie, mi pare che il reddito di cittadinanza me lo faccio portare direttamente e se la pigliano in Napoli. Al delirio non c'è mai fine. Lo stesso io l'ho già campo la retina, tanto lì la benzina costa, mi pare, un euro e qualche cosa. Un appartamento in affitto 100 euro, la ciappi, a mangiare, puoi mangiare quanto vuoi e paghi una cazzata. Ho sentito che un sacco di gente si sta spostando là, ma a quanto pare bisogna stare molto attenti alle truffe. Ce ne sono pochi italiani lì che stanno portando via la pensione lì, non hai capito? E stanno bene, tutti i giorni vanno a festeggiare, capito? Si imbriagano. Qui c'è, ti prende in pratica 900 euro, ce l'ha pulite, senza esertasse. Finché non si tira troppo la corda e poi non ce n'è più per nessuno. Quelli non ce ne tirano più, l'hanno già detto, dice, noi in Italia non ce ne tireremo più. Ci abbiamo comprato la casa qui e se la piglia in Napoli, ha detto, Italia e chi l'ha fatta. Lo so Antonio, sto dicendo, finché non si trova, si tira troppo la corda, nel senso di non abusare troppo, perché poi chiaramente ti chiudono i rubinetti anche là e sei punti a capo. Per il momento ho visto che la gente ne sta bene lì alle Canarie, quindi costa poco la roba lì. Poi si vedrà, magari ti puoi aprire un coso, una pizzeria, quello che è. Di solito gli italiani aprono questa roba qua, pizzerie, bar, sono quelle. Invece in Germania più che gelaterie non ci sono. Sì, ho un amico che c'è stato per qualche anno. Niente, forse per il magone o per altro, adesso non mi ricordo quale motivo, se ne è ritornato qua. E adesso ci stanno bene in Germania ancora, capito? Ma che loro stanno avvancando, oramai con questa storia dei dazi, un bel gente l'hanno inculata, l'hanno capito. Quindi a meno che non va a provare, ai russi torna, come vogliono fare Berlusconi, capito? Vuole aprire di nuovo il commercio con i russi, perché c'è l'amico suo Putin, capito? Ecco perché è andato in Europa, secondo te ce l'ha andato a fare. Per quel motivo? Movimenti strani. Cesso, guys. Cosa vuoi ti dica? Io ormai non ho... Mi astengo totalmente da tutto ciò, proprio mi astengo, proprio non do più il consenso a certe schifezze. Allora aspetta un attimo che mi stanno chiamando. No,